Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, una nuova puntata di Uno, nessuno, 100 Milan. Siamo in diretta dalla ridotta di Viale Monza fino alle 11 con voi. Voglio salutare subito la redazione di Uno, nessuno, 100 Milan, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Oggi c'è anche Luca Cremonese a fianco al nostro Alpino in regia. Voi potete scriverci alla mail 100milan@radio24.it, chiamarci all'800240024 e scriverci al 349. Comunque, per la precisione, 349-238-6666. Sì, effettivamente, così è ancora più complicato. Comunque è quel numero lì, 349-238-6666. Allora, la puntata è molto ricca perché parleremo di coronavirus, avremo ospite il professor Remuzzi, parleremo di tante altre tematiche più avanti, ma partiamo da una storia diversa che voglio subito raccontarvi. Subito dopo, ovviamente, cari ascoltatori, il nostro grido di battaglia o quello di Conte. Vai! Enthusiasm about the future. Siamo qui. È giorno 2 di mio appello ai colleghi fotografi, giornalisti che sono sotto casa di Silvia Romano. Ve lo richiedo sempre gentilmente: se vi levate dalle balle, magari fate una cosa migliore, anche litigando con i vostri capi redattori che vi vogliono lì, i vostri direttori, a dire: guarda, io non vado. D'altronde, come ha detto la mamma di Silvia Romano, Francesca, in un audio intercettato, non riesce neanche giù a portare il cane a fare pipì. Il cane, tra l'altro, ha detto si chiama Alma, così ha detto la rendete famosa, Alma, bellissimo come cane, ho visto un paio di foto, molto molto carino. E è scesa sotto casa e c'è l'assedio, al che ha detto: ragazzi, non sono Sharon Stone, e soprattutto, come va? Se voi non ci foste sarebbe molto meglio. Stupendo, vai Francesca. No, mi fate ridere, veramente ridicolo. Cioè, ma non sono Sharon Stone, quindi non merito tutta questa notorietà. Signora, almeno come sta Silvia. Se non ci fosse voi sarebbe molto meglio, perché siete un incubo. No, c'è ragione. Siete un incubo. I giornalisti che dicono: sai, c'ha ragione. Cioè, poi dicono il solito: facciamo il nostro lavoro. No, non è, cioè, è il vostro lavoro. Però vi prego, per favore, sì, siamo un incubo come categoria. Quando siamo così, siamo un incubo. E nessuno di questi giornalisti sotto casa di Silvia Romano si pone un attimo la questione: se fosse lui o lei assediata così da 200 persone, 50 persone che non riesce a portare a casa anche il cane a fare pipì sotto ai giardinetti. Un incubo, siete ridicoli. Ma ci dica almeno come sta Silvia. Se non ci foste voi, molto meglio. Ha ragione, cioè io le do ragione al 100%. Ci vorrebbe una bella passata di Micio di Boe in loco. Eccolo lì, il Micio di Boe in loco. Va bene. Salute, abbracci i colleghi, ovviamente. Allora, cari ascoltatori, però oggi voglio partire dando voce a una persona che torna con noi. Si chiama Francesco Sceri. Lo saluto, buongiorno e ben ritrovato, Francesco. Buongiorno, grazie di essere qui. Allora, Francesco Sceri è il fratello di Emanuele Sceri. Forse esatto, la ricordate questa vicenda. 13 agosto 99, allievo paracadutista della Folgore, morto a 26 anni alla Gamerra di Pisa. Ora la procura militare, guidata da Marco De Paolis, magistrato che io conosco per tante cose che ha fatto anche in passato molto apprezzabili, secondo la procura militare Emanuele Sceri fu ucciso da 3 caporali che lo costrinsero per un episodio di, chiamiamolo, nonnismo, adesso lei ce lo spiegherà, Francesco, a salire su quella torre di addestramento con le scarpe slacciate, con la sola forza delle braccia, insomma, lo misero in una condizione tale per cui lui cadde e poi lo abbandonarono lì agonizzante. Francesco, ci sono voluti tantissimi anni. Ovviamente questa è una ricostruzione della procura, poi si vedrà. Che effetto le fa vedere che questa vicenda, per la quale non avete mai mollato un secondo, riemerge così prepotentemente? È proprio un misto di emozioni, da rinnovo del dolore, perché venire a scoprire, così come hanno scritto, che appunto tre caporali hanno inferto violente, crudeli a mio fratello, riapre la ferita indubbiamente. Dall'altro lato si vede uno spiraglio di giustizia, perché appunto è un primo passo, la conclusione delle indagini, che ci sono voluti ben 21 anni, una commissione parlamentare d'inchiesta, un mondo, una società civile attenti, che non hanno dimenticato Emanuele, e anche il mondo dei media, dei giornalisti, che ci sono stati vicini e non hanno mai spento i riflettori sulla storia di Emanuele. Il reato di cui devono rispondere queste tre persone, una delle quali tra l'altro è ancora nell'esercito, solo una dei tre, è violenza ad inferiore ovviamente intendetelo come grado militare, violenza ad inferiore mediante omicidio pluriaggravato in concorso. Ma tra l'altro ho letto, Francesco, che sarebbe nato tutto da una vicenda veramente banalissima, forse non in una caserma, e cioè, ce la vuole spiegare? Purtroppo sembrerebbe che sia colpa del telefonino. Magari all'epoca il telefonino era uno status simbolo, sinonimo di benessere, per cui questa cosa gli ha dato fastidio e questo qua potrebbe essere il pretesto. Ora io non so se è la verità, ma è verosimile che Emanuele voleva fare una telefonata prima di andare a dormire e non gli è stata concessa neanche quella telefonata, perché poi non è partita la telefonata, ma così si erano lasciati col suo compagno, con Melitone, Viperti. Dice: faccio una telefonata e poi vengo, e questa telefonata gli è costata carissima. Perché i tre caporali lo hanno visto dentro la caserma con il telefonino. All'epoca lo hanno incrociato telefono, no. E siccome il telefonino non si poteva utilizzare, o comunque questo fu un pretesto per iniziare a dire: fai delle flessioni. Sicuramente. E poi scala questa torretta di addestramento. Queste pratiche esistevano anche per altre motivazioni, ecco, perché se queste persone, questi caporali, questi nonni, si permettevano di, non solo, non penso che sia stato l'unico mio fratello, perché era una pratica molto probabilmente tollerata, una pratica che serviva a forgiare probabilmente gli allievi. Si sa che, come si suol dire, il nonnismo, per chiunque ha fatto militare, è una pratica che c'è, ecco. Poi purtroppo in questo caso si è partiti da un episodio di nonnismo e si è finito in una tragedia. L'aspetto più inquietante di tutta questa vicenda ricostruita dalla procura militare è che questi tre caporali, secondo l'accusa, dopo aver visto cadere suo fratello e dopo aver accertato che era ancora in vita, lo hanno lasciato lì, agonizzante. Sì. Probabilmente intervenendo avrebbero potuto salvarlo. Questo non lo possiamo sapere con certezza, però diciamo, la norma vuole che se io investo una persona o un animale per strada, devo soccorrerlo. Cioè, è morale questo, è un obbligo morale, oltre che legislativo, di fermarsi, se no ometti un soccorso. Io sono un medico, quindi a maggior ragione capisco che non potrei mai e poi mai non soccorrere una persona ferita. Il problema è che secondo questa ricostruzione, Emanuele avrebbe potuto dire: sono caduto perché mi hanno fatto avrebbe questo. Avrebbe potuto dire le cose come sono andate, certamente, quindi non avevano interesse a soccorrerlo. Le chiedo un'ultima cosa. Dopo tre giorni. In agosto. Le chiedo questo come ultima cosa, Francesco. Ci sarà il processo? C'è anche la procura di Pisa, la procura non militare, la procura di Pisa che indaga, sta per concludere le indagini. Io spero tantissimo che le due procure non siano contendenti, ma anzi uniscano le loro forze sempre per la ricerca della verità e per ottenere giustizia. Dal punto di vista delle tre persone che sono a questo punto accusate, lei e da quelle famiglie avete avuto qualche tipo di riscontro o sapete che c'è stato qualche tipo di atteggiamento nei confronti di questa inchiesta? Io non ho avuto nessun contatto con queste persone. Ne ho visto le fotografie nei giornali. E niente adesso di più, non sapete neanche di eventuali reazioni io non le conosco, non lo so. Va bene, staremo a vedere. Io intanto la ringrazio. Vedremo. La ringrazio perché era già stato ospite per una vicenda di nonnismo che non riguardava direttamente il fratello, ma ripeto, Francesco Sceri, e noi saremo qui a dare voce a lui e ai familiari quando e nel caso ci sarà un processo. È il fratello di Emanuele, allievo paracadutista della Folgore, che secondo la Procura Militare di Roma è stato ucciso il 13 agosto 99 alla caserma Gamerra di Pisa da tre caporali, da tre superiori, che lo hanno, per motivi di nonnismo, costretto a salire su una torretta d'addestramento, percuotendolo nel frattempo, e lui alla fine è caduto, l'hanno lasciato lì agonizzante. Allora, cari ascoltatori, volevo, visto che la notizia era sui giornali, iniziare con questa voce diversa per poi rigettarci nelle tematiche che ci stanno un po' inchiodando da mesi e mesi e mesi, a iniziare dal coronavirus. Saluto il professor Giuseppe Remuzzi, che torna con noi. Buongiorno, buongiorno professor Remuzzi, Istituto Mario Negri. Professore, ci deve aiutare a fare il punto, perché come sa le informazioni sono migliaia che arrivano ai cittadini ignari e ignoranti, ecco, di queste tematiche, e bisogna un po' discernere tra le mille notizie. Ecco, ce n'è una che ho colto oggi sul Fatto Quotidiano, arriva in realtà dall'Istituto Sacco, dall'ospedale Sacco. Il titolo è questo: il Covid lascia danni perché il 30% di chi è guarito rimarrà malato cronico. Il titolo mi ha colpito. Che cosa ne sappiamo a riguardo? Chi ha preso questo virus rischia di avere delle patologie croniche? Sì, questa è una notizia vera, giusta, soprattutto per quanto riguarda il polmone. Molti di queste persone avranno delle malattie polmonari croniche, soprattutto quelli che hanno avuto più necessità di degenza in rianimazione, però questo si applica anche eventualmente ad altri organi, si potrebbe applicare al cuore, anzi siamo quasi certi che si potrebbe applicare al cuore, ma anche al rene, e questo è perché da tempo ho insistito perché quando ci sarà un piano del governo per riprendere, sia chiaro che serve non solo servono tre cose: degli ospedali Covid che siano dedicati a questi ammalati in modo da non, brutto termine, mescolare, insomma, ma evitare che ci siano insieme ammalati che possono essere contagiosi con la pandemia degli ammalati non Covid. Il New York Times intitolava in questi giorni la pandemia degli ammalati non Covid, perché sono rimasti indietro tutti gli ammalati non Covid e hanno bisogno di ospedali efficienti che curino. Sì. E poi servono dei centri di rianimazione, che noi abbiamo peraltro, perché una volta li avevamo per la tubercolosi, scusi, non di rianimazione, di riabilitazione. Di riabilitazione. E quindi non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo offrire riabilitazione respiratoria alle persone che avranno difficoltà. Guardi, c'è un titolo di Washington Post che è impressionante: la lunga convalescenza, non malato ma non normale. Quello è quello che succederà probabilmente al 30% delle persone. Accidenti, ma malattie croniche ovviamente di diversa tipologia e di diversa gravità, immagino, però vuol dire che è un virus davvero, molte persone, virus, il 30% non potranno dire sono guarito, cioè mai. Nel senso. Non potranno dire sono guarito, potranno avere una malattia polmonare cronica, potranno avere un'insufficienza renale residua, possono avere delle difficoltà col cuore, col fegato e anche dei danni neurologici, ma io mi auguro che questo però con la riabilitazione col tempo tenda a migliorare. Sì, non succederà assolutamente a tutti, quindi succederà a 3 persone su 10, ma è una cosa che sappiamo molto bene, non è una scoperta di oggi, è una scoperta di questi giorni che è stata fatta. Ma le chiedo questo, Uno dei punti, lei dice, ospedali dedicati al Covid, al di là delle questioni politiche nelle quali non la voglio far entrare, però ha sentito che forse nel giro di pochi giorni smantelleranno quell'ospedale alla Fiera di Milano che è stato costruito, e allora non è il caso in realtà di tenerlo, anche se non serve? Ma io penso che sborso, se sia la fiera o non la fiera, no, io non sono competente in questo, però abbiamo tanti, noi abbiamo piccoli ospedali che vanno chiusi e l'abbiamo visto anche con questo Covid. Se i piccoli ospedali fossero stati chiusi, questi problemi molti non ne avremmo avuti. Abbiamo ospedali di medie dimensioni, le quali possono essere benissimo dedicati al Covid. Abbiamo dei grandi ospedali. I grandi ospedali devono fare il loro lavoro. Mescolare sarebbe costosissimo, implica il doppio delle persone. L'argomento è però gli ospedali grandi sono più bravi a curare il Covid, ma intanto quelli nuovi non dovranno andare in rianimazione perché li stiamo curando molto meglio. Poi possiamo insegnare a questi medici, tenga conto che il Covid non è uno fa una cosa come una specie di lazzaretto, ma vado lì, mi occupo di quelli che non respirano. In realtà il Covid, c'è un altro lavoro bellissimo su Science che dice il polmone è il ground zero, cioè torri gemelle. Ma il Covid va dappertutto, quindi chi si occupa di Covid si occupa di malattie renali, di malattie del cuore, di fegato, di sistema nervoso centrale, di problemi cognitivi, di tutto. Quindi è una sfida grande della medicina che vogliamo vincere, sì. E dove potremmo persino mettere i medici migliori, anche perché sul piano della ricerca è una sfida veramente straordinaria. Ecco, però questo è un punto fondamentale, perché lei da alcuni giorni fa, no, non solo lei, fa una serie di interviste a dire guardate che evidentemente non sappiamo ancora i motivi, però questo coronavirus che conosciamo oggi non pare lo stesso, almeno come potenza, come, mi aiuti ovviamente con le terminologie giuste, rispetto a quello di 2 mesi fa, cioè sembra un po' depotenziato, sembra almeno i malati si ammalano in maniera meno grave, questo almeno riscontriamo. Questo che cosa significa? Abbassare la guardia? No, abbiamo capito, però forse si può convivere meglio con questo virus? Certo, abbassare la guardia assolutamente no, anzi le persone dicono non devi dire questa cosa perché sennò la gente abbassa la guardia. Io però dico la verità, io devo dire che non so se è cambiato il virus o se siamo cambiati noi. Dico che la malattia non è grave e dico che i malati onestamente, lo posso dire sottovoce, ma non ci sono più. Lo dico io da tempo, lo dice il professor Clementi che è un virologo, perché io non sono un virologo, scrivono virologo perché c'è il virus, no, quando c'era il trapianto scrivevano immunologo. Io faccio il dottore e se dico che non vedo i malati, non vedo i malati. Una volta c'erano 80 pazienti che arrivavano al pronto soccorso con difficoltà respiratorie. Ieri abbiamo avuto 0, il giorno prima abbiamo avuto 0, il giorno prima abbiamo avuto 0. Il professor Clementi, che è un virologo, dice avevamo 100 malati, adesso ne abbiamo 0. Cos'è cambiato? Non lo so. Io non lo so. Il virus non credo sia mutato. Tutti quelli che studiano la genetica del virus dicono è sempre uguale. Tenete conto che questo è un virus che tende a mutare, però ha un sistema di correzione di bozze tale per cui nonostante i virus RNA siano noti per mutare, questo qui non tende a mutare, è un sistema molto sofisticato di correzione di bozze, quindi appena c'è un errore lui se lo corregge da solo, quindi è difficile che muti, però bisogna anche dire che stava nel pipistrello, è andato nel pangolino, c'è stato di mezzo un altro animale e poi è venuto all'uomo, quindi le capacità di mutare sicuramente ce l'ha, però non voglio dire che sia mutato e deve essere che a persona scrivono che io dico che è mutato. No, però lei dice però riscontriamo da medici che la malattia adesso non è poi così grave. La malattia non è assolutamente, quelle malattie che c'erano prima non c'erano, ma vi dico un dato che è inequivocabile. Scusi professore Muzzi, sa perché? Perché giustamente lei dice se lo diciamo poi, ma in realtà c'è sempre questo atteggiamento di pensare, non da parte sua, che la popolazione sia fatta di tanti bambini un po' da educare. Se invece lo diciamo in maniera serena, la gente capirà, ecco. Poi quello che non può rispettare le regole, non le rispetta anche di fronte al morbillo che uccide tutti, ecco, voglio dire. Esattamente così. Cioè, tra l'altro, secondo me, questa è una notizia che deve dare entusiasmo alla gente, perché sarà il lockdown, non sarà il lockdown, non lo so. Ma la gente deve sapere che noi possiamo vincere sul virus. E allora, semmai le misure di attenzione devono essere fatte con maggiore scrupolo. Ma è una grande soddisfazione sapere che tu fai le misure di attenzione con un certo scrupolo e poi non hai più malati. Non so neanche se dipende da quello. Una cosa di cui io vi dico, perché è molto chiara, noi stiamo facendo 3 studi all'ospedale di Bergamo, tutti 3 importanti, nei quali io credo molto e penso che potrebbero portare dei risultati davvero nella battaglia con questo virus. Forse abbiamo capito una cosa che può essere molto molto preziosa. Questi studi noi non li riusciamo più a fare perché non ci sono i malati. Allora, dal punto di vista di chi fa gli studi, insomma, è un problema, ma per i malati è una cosa meravigliosa. È sì. Una cosa meravigliosa che noi non riusciamo a fare gli studi, perché alla fine, se la malattia va via, anche se non riusciamo a fare gli studi, pazienza, dopo potrebbe tornare e quindi poter fare gli studi è importante. Però se non ci sono i malati per fare gli studi vuol dire che non ci sono i malati, questo è un dato inequivocabile. Certo. Tutti gli epidemiologi possono dire quello che vogliono, ma se non ci sono, questo. E questo è un fatto, insomma. No, ma per cui le precauzioni sì, però mi chiedo, ma queste sono decisioni della politica, se non stiamo un pochino esagerando con la ripartenza molto molto lenta. Anche queste sono frasi, per carità, che vanno dette sottovoce, però non lo so, c'è anche una vita da riprendere, ecco. Sempre sottovoce, e sempre dal punto di vista medico, chiudere e aver chiuso fino adesso vuol dire avere, secondo qualcuno, creato un problema di difficoltà economiche inimmaginabili. Questo dice un professore di Londra. Vuol dire che la povertà e i conflitti sociali sul piano puramente medico sono altrettanto gravi del virus, quindi noi dobbiamo, e forse peggio, quindi noi dobbiamo stare molto molto attenti a far ripartire tutto con tutte le precauzioni del mondo, perché adesso i nostri due nemici sono la povertà e i conflitti sociali, che sono fonte di malattia, certo. E sono tra l'altro tra le morte, prime fonti di malattia. Si muore anche per povertà. E di morte. C'è un impressionante lavoro sul Lancet che è stato pubblicato ieri. Questo lavoro si riferisce a tutto il mondo, quindi non si riferisce necessariamente a noi, ma dice l'aumento nella morte materna e dei bambini sarà devastante. Insomma, dobbiamo riprendere tutte le attività e secondo me dobbiamo riprendere anche le scuole con il garbo, con tutto quello che ci vuole, perché se tu tieni chiuse le scuole è chiaro che le mamme devono stare a casa, il papà, il lavoro riprende al 50%, poi tra l'altro se le scuole sono chiuse e i genitori lavorano, perché a un bel momento dovranno lavorare, se no non avranno neanche loro da vivere, perlomeno la maggior parte, i bambini staranno con i nonni, stare con i nonni è peggio che stare a scuola per i nonni. Certo. Quello che bisogna fare è sapere che la politica è un'attività in cui bisogna sapere prendere un certo tipo di rischi. Da una parte c'è una cosa sulla bilancia, dall'altra parte c'è un'altra cosa sulla bilancia, si chiama intelligence questa cosa qua, che non è intelligenza, ma vuol dire mettere insieme il rischio, la discrezione, la capacità, la cultura, la conoscenza, e tutto insieme fa una decisione che non è bianca o nera. È chiaro che rischi qualcosa, qualche bambino si ammalerà, però si ammalano molte più persone se tu le scuole tieni chiuse, a me pare. Sì. Noi la ringraziamo, professore Remuzzi, grazie. Perché è sempre chiaro e qualche cosa, anche se sottovoce, forse che andava detta, è stata detta chiara, cioè la malattia non è più così grave come prima e professor Remuzzi, come molti medici, non vedono più tanti malati entrare, per carità, però poi dopo se uno prende le frasette, fa i titoloni, diventa, no? E invece facendo dei ragionamenti forse si può pensare che si può anche riaprire con le dovute regole. A questo proposito, dopo la pubblicità cercheremo di capire se le regole varranno per gli stabilimenti balneari. State con noi perché arriva anche Vestaglione a Manera. 1 nessuno 100 Milan. Un consiglio alla famiglia Romano: avete delle finestre che si affacciano sulla strada e lanciate qualche secchio d'acqua fresca. Dottor Milan, con la scusa del coronavirus ci stanno togliendo la libertà di pagare anche in contante. Milan, non solo sei fazioso, sei anche un frattacchione. Vabbè, frattacchione, questo è come dire il copyright De Luca su Fabio Fazio. Adesso non esageriamo. Leonardone Manera, hai sentito? Buongiorno. Buongiorno. Allora, come va? Avete detto una serie tutto di bene. Cose sotto tutto bene, sì, ti tutto sentiamo bene, in forma, cioè, hai fatto un preascolto che insomma sembravi... Vabbè, tutto bene, a posto? Dovreste ripetere, secondo me, gli ultimi 10 minuti che avete fatto col professor Remuzzi, perché avete detto tutto sottovoce. Diciamo sottovoce, sì. sottovoce. Quindi sarebbe utile ripeterlo ad alta voce in modo che tutti lo possano comprendere bene. Il professor Remuzzi dice, oh ragazzi, il professor Remuzzi è un professore che io stimo tantissimo a livello mondiale, di fama mondiale, e dice non, la malattia non è grave adesso, e non ci sono più tanti malati, tanto che non riescono più a portare avanti gli studi. E allora com'è che siamo tutti ancora super blindati, non più super blindati, ma blindati, e si fa fatica a ripartire? Però sarai contento di sapere che arriva il bonus di 600 euro esteso anche per il mondo dello spettacolo. Sì, sì, ho visto. In questi 55 miliardi c'è. Ci sono questo. Alcuni miei colleghi che aspettano giustamente, insomma, avidamente questo bonus per contento. Tra l'altro voglio ringraziare quelli che ieri ci hanno scritto al Pacco per lo Spirito, ecco. Già alcuni ci hanno scritto, cosa c'è da ridere, da sorridere in modo così denigratorio adesso come devi stai lavorare facendo? Adesso devi lavorare. Ricordiamola l'iniziativa. Ricordiamo la mail. Allora, la mail è unpaccoperlospirito@gmail.com. Voi mandate una mail lì. Scrive a questa mail oppure manda un audio alla pagina Facebook di Un Pacco per lo Spirito dicendo in audio perché è importante per loro lo spettacolo, noi manderemo Un Pacco per lo Spirito, vale a dire qualche minuto creato appositamente, personalizzato, con intrattenimento di varia natura, comico, musica, cabaret e altre cose, insomma. Bello, per bello, testimoniare l'importanza che ha anche lo spettacolo, ecco. Intanto è importante pensare alle vacanze. Noi salutiamo Fabio Viale. Buongiorno Fabio Viale. Allora, Fabio Viale è titolare dei Bagni Bianca, siamo a Diano Marina, è anche presidente della SIB Confcommercio Imperia. Perché abbiamo scelto la Liguria? Perché Viale, la Liguria è una terra, si dice spesso, molto stretta, no? Per cui gli stabilimenti già non possono godere dei grandi spazi che magari ci sono sulla Riviera Romagnola, eccetera. Voi, con queste nuove regole, come siete messi? Ce le vuole anche riepilogare le distanze? Cosa sono, 5 metri? Sì, buongiorno a tutti, intanto e grazie per questa possibilità di, diciamo, farci parlare anche a noi della Liguria. Le distanze che lei si riferisce sono quelle che sono state, diciamo, messe sul tavolo tecnico dall'INAIL, che sono 5 okay. metri tra linea e linea e 4 metri e mezzo tra ombrellone e ombrellone. Fortunatamente noi in Liguria ieri abbiamo avuto un incontro con il nostro assessore regionale che ci ha, diciamo, garantito che proverà a modificare queste misure in misure più accettabili per la Liguria. Perché altrimenti tipo? 75, tipo 3 metri per 3 o 3 metri e mezzo per 3, una misura di questo genere. Perché noi tra l'altro, con le misure... Prego. No, dicevo, a Diano Marina, voi siete anche fortunati rispetto ad altre zone della Liguria, perché a Diano Marina c'è già un po' più di spiaggia. C'è già un po' più di spiaggia, però noi dobbiamo rappresentare tutti i balneari liguri e ci sono delle realtà che con 4 metri per 5 metri non aprirebbero neanche. Noi abbiamo fatto un calcolo come associazione che il 75% degli stabilimenti liguri rimarrebbero chiusi. 75%? Accidenti. Certo. Tra l'altro, si perderebbe quasi un ombrellone su 4 e quindi non quasi sarebbero in grado di aprire. Cioè, accidenti, si metterebbe un ombrellone su 4. Sì, sì, sì, sì, sì, perderebbero tre ombrelloni su quattro, esatto. Quindi non conviene, cioè, perché uno non è che deve aprire per fare beneficenza, cioè non è che può aprire per perdere dei soldi, no, per mettere... dal punto di vista del turista staremmo più comodi e più larghi, però capisce. No, che... ma noi siamo disposti a fare un'estate anche di servizio, diciamo la verità, noi siamo disposti a raccogliere uno studente in sicurezza e permettergli di venire al mare in vacanza. Con distanze di sicurezza, però, perché non capiamo come mai su un autobus si possa stare a un metro di distanza e nelle spiagge a 4 metri. Questo è un grande mistero. E nei ristoranti un'altra distanza. Ho tra l'altro inciso, poi giuro, non attacco più la categoria a cui appartengo anch'io, giornalisti. Però oggi c'è la nuova lezione di geometria dei giornalisti. Ho letto su Repubblica questo: nei ristoranti ci vuole la distanza di 4 metri quadrati. Ragazzi, ma 4 metri quadrati è un'area, non è una distanza. La distanza poi, cioè l'area è 4 metri quadrati per cliente, ma una distanza di 4 metri quadrati non ha un senso logico in geometria. La distanza di 2 metri, 2 metri per 2 sono 4 metri quadrati, quindi si può stare a 2 metri, la distanza di 4 metri quadrati. Vabbè, ma si fa fatica a far pace con i concetti di quinta elementare di geometria per alcuni giornalisti. Secondo te perché io non voglio fare i compiti con mio figlio? Perché mi mancano le nozioni di base, ma sì, proprio. Quindi potrei fare il giornalista. Stai dicendo questo? Fare il giornalista. Così si continua a leggere, anche oggi leggo Pierluigi Battista, distanza di 4 metri nei ristoranti. No, sono 4 metri quadri a cliente, quindi la distanza è a 2 metri. Invece torniamo agli stabilimenti, 5 metri tra le linee, 4 e mezzo tra gli ombrelloni. Questo per l'INAIL, esatto. Forse in Liguria si potrà un po' derogare. Speriamo vivamente che venga, diciamo, emanata questa ordinanza più presto, anche per permetterci di poter allestire le nostre spiagge. Sì, dopodiché cosa fate? Mascherina sempre, cioè, è incredibile, potrà giocare a racchettoni, non si sa fare allora, i castelli di sabbia, Da quello che sappiamo saranno permessi i giochi singoli, saranno aperte le aree giochi, però con un numero limitato di bambini, cioè se tu hai uno scivolo, un bambino, tre scivoli, tre bambini, cioè un bambino, ragazzi, per gioco. Uno scivolo, un bambino, ma voi immaginate, e poi quando ha finito di giocare va sanificato tutto. Stiamo aspettando di leggerle queste norme. No. E poi in spiaggia, i giochi singoli, quali sono? Sì. Che gioco si può fare singolarmente in spiaggia? Ah, solo lo scivolo. L'altalena. È di un'amarezza totale, uno sta tutto il giorno da solo a andare su e giù dallo scivolo. Vabbè, ma un bambino di 5 anni vorrà andare sullo scivolo. No, secondo me non vuole più andare al mare il bambino di 5 anni, se deve stare tutto il giorno da solo sullo scivolo. No. Lei cosa dice, Viale? No, io dico che la nostra speranza è che con l'andare dei giorni e delle settimane, se questa pandemia va diminuendo come sembra, possano essere riviste queste normative e quindi essere alleggerite e permettere anche alla gente di fare un po' di socializzazione all'interno di uno stabilimento balneare, perché venire alla spiaggia e starsene da soli non ha molto senso. Sì, sì, devo dire, guardate, allora io ieri sono andato a comprare una pizza ad Asporto dai miei amici al Gargano, così faccio pubblicità, che in questo momento bisogna sostenere un po' in tutti i modi anche il commercio, e giustamente il pizzaiolo Cosimo mi ha detto: ma io quasi quasi faccio le divisioni in legno invece che in plexiglass, così poi le brucio nel camino, almeno faccio questo investimento e poi lo brucio, perché io in alcuni locali ci sono già le divisioni in legno. Sì, ho capito, ma se tra 2 mesi finisce tutto, anche tutti gli investimenti, che è vero si possono ottenere poi gli sgravi fiscali, 65% di però l'anno prossimo, tu fai tutti questi investimenti e poi tra magari 3 mesi c'è il vaccino e questo virus basta. Forse conviene aspettare 3 mesi e allora non fare niente, star chiusi e non lo so, ognuno si deve fare i conti in tasca così. Cioè, Viale, le conviene aprire quest'anno? Ha capito? Allora, guardi, io le lo dico sinceramente, noi non vorremmo assolutamente stare chiusi. perché comunque vogliamo permettere alla gente di venire alla spiaggia, ai nostri clienti che ci hanno sempre dato fiducia, perché se noi chiudiamo diventa tutto spiagge libere e le spiagge libere saranno difficilissime da gestire. Per cui noi vogliamo stare aperti, sappiamo che sarà un'estate di servizio, però almeno un limite, diciamo, di ragionevolezza, cioè una distanza che ci faccia sì diminuire magari del 30-40% le capienze delle spiagge, va bene, però non un ombrellone su qua. Questo noi anche perché secondo me sai cosa succederà? Che magari nelle spiagge si starà a distanza di sicurezza, ma poi nei caruggi, nei vicoli della Liguria è difficile che non ci siano almeno dei piccoli assembramenti, quindi rischia di essere una norma limitata alle spiagge e a quel punto anche in qualche modo inutile. Aggiungo anche di più, ma secondo voi quando uno poi va in acqua, che ne so, non si mette a fare quei classici giochi, non so, la battaglia in acqua, in due sul materassino, perché ci sarà un poliziotto della, ogni tre metri a controllare, non lo so, mi sembra un po'... È molto, mi sembra ancora un po'... tutto molto super l'aria, diciamo. A tempo per cambiare lavoro, da qui a scherzo, no, ovviamente. Assolutamente, però le ripeto, guardi, io ci tengo veramente a far capire che noi non facciamo solo un discorso economico, noi vogliamo assolutamente aprire, questa è la nostra linea, però vogliamo con delle un attimino regole fattibili, capisci? Non fattibili. Questa esagerazione, va bene, noi la ringraziamo. E staremo a vedere. Fabio Viale, titolare dei Bagni Bianca, Diano Marina, anche Viale, presidente del sindacato Balneari Confcommercio Viale, Imperia. Lei sa che Viale, Diano Marina è citato in una canzone di Renato Pozzetto, così se vuole fare promozione alla sua città. Grazie mille. Grazie a voi. Adesso una sfida a Luchetti, dobbiamo trovare, e anche sfida Alpino, Peter Bescapè, dobbiamo trovare. Che canzone era? Hai anche il titolo? Canzone Renato Pozzetto. Diano Marina, tra l'altro Diano Marina che è la nostra quella amica che Lucchetti frequenta, non cioè si sa mai, non si sa mai, nella vita il qualche può capitare una cosa, non si sa mai, non si sa mai, forse non si non sa mai, si sa, non si sa mai. Credo, forse. Andiamo, l'abbiamo trovata, cioè in tempo zero, non si sa mai, non si sa mai quello che al mondo ti può capitare, non si sa mai, non si sa mai, questo dovrebbe essere, ma il Miriam sembra Lucchetti un coro trova da stadio tutto. Sembra un coro da stadio, scusa, sembrava, non lo so, ma l'abbiamo trovata Alpino, non ho capito, se l'abbiamo trovata possiamo darla in onda, se no andiamo al traffico e dai. Adesso ve lo dicio che esso c'è dentro e sta andata da parte Lodovica fino in via Farini, via Torino, tutto uno scoglio. Ma se si tratta dopo di pagare io mi sento male, sai, non si sa mai. A me mi piace il mare. Piantala. A me mi piace. Esso mi piace molto. Però ci fidiamo. Aspetta. Che cita Diano Marina. Aspetta. Sì, la città ma è lunga, adesso ci ho due minuti prima. Vabbè, che adesso la citi, abbiamo il tempo di trovare il puntamento giusto su Diano Marina, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Put me in a special school, cause I am such a fool, and I don't need a single book to teach me how to read. Parentesi, questo qui è SARS-CoV-2, no? SARS. Con la SARS cos'era successo? Uguale, a un certo punto, puff, sparita. Piantati gli studi per il vaccino, eccetera, eccetera. Può essere che sia successa la stessa cosa, no? Comunque dai, c'hanno ragione, Milan o mica Milan, siete diventati ormai troppo servizievoli di questo governo, veramente, è uno schifo sentirvi. Scusate, ma è la verità. Se no, non si diventa niente. Siamo troppo, vabbè. Sì, vabbè, ci si diverte, senti un po'. Tutto costa da impazzire, pensa ieri tre gelati, cada uno 1000 lire. Ho venduto l'ombrellone e il canotto le sciupà. Porta dietro qualche lira, 200-300 mila, forse basterà. Leo, non è qui, è più avanti, ecco, è il momento, no, in cui Leo, descrive il mare. Sì, bene, ho trovato tutto il testo, mi dispiace contraddirti, ma credo che citi Arma di Taggia e non Diano Marina. Questo è vero, mi ero confuso, cita Arma di Taggia. Ah, è Vabbè, è sempre Liguria, è sempre Liguria. Figuraccia. È Arma di Taggia. Cioè, quindi hai detto al sindacato dei balneari che cita Diano Marina, mentre lui da 20 anni è arrabbiato perché cita Arma di Taggia. Ma sono lì vicine, sono attaccate Sanremo, Arma di Taggia, Diano Marina, è sempre Liguria. Mamma, come sei pignolo. Fa le pulci a tutti qui, il fenomeno. Fenomeno Milan che fa le pulci a tutti. Vabbè. Granito Manera si è sgretolato anche stavolta. Comunque il titolo è A me mi piace il mare. A me mi piace il mare, esatto, sì, sì. Ma cita Arma di Taggia. Infatti ho sentito che c'era un po' di amarezza nel sindacato, ma ha detto sì, sì, va bene, salve. E adesso sarà andato a piangere perché gli hai ricordato che questa canzone cita Arma di Taggia in realtà. Invece saranno 3 chilometri tra Arma di Taggia e Diano Marina. Vabbè, dai, non sono cose che interessano gli ascoltatori. C'è la differenza che c'è nel testo di una canzone, 3 chilometri, una distanza enorme. A me, ma parla strunza! Va bene. Comunque dicono anche che non è attaccata, dice Sfida Luchetti, che frequenta Diano Marina. Che sono 3 chilometri. Sfida Luchetti, controllami anche i chilometri di distanza tra Arma di Taggia e Diano Marina. 35 chilometri! Dice 35! Ragazzi, Leonardo, sei un buffone. Prego, a te il microfono. Va bene. Allora, in tempi così complicati come quello che stiamo vivendo, si può sempre vedere il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. La parte vuota del bicchiere ce l'abbiamo e l'abbiamo avuta sotto gli occhi anche in modo drammatico costantemente da fine febbraio. Proviamo allora invece a vedere la parte mezza piena, immaginando come sarebbe stata la nostra vita in questi 3 mesi se il coronavirus non fosse mai esistito. Quindi sarebbe inevitabilmente continuato il campionato di calcio, bene per juventini e laziali, un po' meno per l'Inter, ancora meno per noi milanisti che avremmo continuato a subire e a sperare in qualche giocata di Ibra. Però poi la Juve non avrebbe vinto la Champions come al solito e questo ci avrebbe dato motivo di conforto. Il CT della nazionale Mancini avrebbe detto che le porte della squadra sono aperte per tutti, anche per Balotelli, cosa che si dice sempre. Ci sarebbero state polemiche sterili sui rigori dati alla Juve. Sarebbe ripresa in modo insostenibile la polemica sui migranti, che senza virus sarebbero sbarcati probabilmente più numerosi sulle nostre coste. Ogni giorno ci sarebbero state da commentare sulla questione immigrazione, le dirette social di Salvini e Meloni e dall'altra parte gli elogi alla ministra Lamorgese con guerre di numeri non verificabili. Anche su questo non ci è andata male. Nei programmi televisivi avremmo continuato a sentire applausi a ripetizione fatti partire dagli animatori di studio. Si parlerebbe ancora di Bugo e di Morgan e del litigio a Sanremo, dibattito che invece grazie al coronavirus è stato stroncato quasi sul nascere. A Pasqua in molti saremmo andati al mare non trovando parcheggio, i nostri figli si sarebbero lamentati di più per il regalo brutto trovato dentro l'uovo di Pasqua. Papà, il regalo non mi piace. Silenzio, che c'è il coronavirus. Abbiamo stroncato la discussione sul nascere. Avremmo dovuto subire quei momenti di imbarazzo che si vive in un ascensore quando si incontra qualcuno che vive nel tuo palazzo parlando del tempo. Conversazioni che si concludono con un «Oggi c'è bel tempo». Sì, oggi piove. Già. Adesso invece si entra uno per volta, problema risolto. Il meteo non è più di casa in ascensore. Avremmo continuato a provarci con molte donne incontrate fuori casa, con scarse possibilità di successo. Il coronavirus, casomai, ha ottimizzato i tempi permettendo di concentrarci su quelle cose che davvero ci interessano, anche se dopo un po' trovare argomenti di conversazione in chat diventa oggettivamente complicato. Ci saremmo trovati, come sempre, ad aspettare i figli ancora piccoli all'uscita da scuola, all'uscita dagli allenamenti sportivi, consumando nel frattempo molti caffè nei bar delle vicinanze che non avrebbero contribuito a migliorare la nostra gastrite. Avremmo continuato a bere molti alcolici durante gli aperitivi, interrogandoci, da ubriachi, sul senso della vita, con frasi che potevano passare da «Sì, ma qual è il senso della vita?» Ah, oh, guarda quella là, me la dà quella là, il senso della vita. Una settimana sì e una no, da fine febbraio, Italia Viva avrebbe cercato di far cadere il governo, trovando poi all'ultimo minuto un modo o un motivo per mantenerlo in vita. Pensate quante paginate di giornali sarebbero state scritte inutili su tutti i retroscena scatenati. Ecco, questa, che è la cosa che mi sarebbe mancata di meno, è quella che ha continuato a esserci di più, cioè le polemiche fra governo e Italia Viva. è proprio vero, a volte il destino è proprio cinico e baro. Ho finito. Bravo Leo, vedi che oggi ti abbiamo messo gli applausi, perché sennò risultiamo stucchevoli, stucchevoli. Sono esattamente 25 chilometri se percorri la via Aurelia e 35 chilometri se vai in autostrada. Tutto questo per la precisione, Massimo Alfredo Giuseppe Maria incarnato, te lo ricordi, incarnato nella nostra Miriam Lucchetti, ci precisa questo, insomma. Quindi che dobbiamo dire? Bene. Però noi apprezziamo i tuoi tentativi, perché hai dei tocchi di genio, ti ricordi queste cose, poi magari sui particolari così. Allora, ricordo sì. A tutti che io sono quello della lontra, ecco, se tu ricordi. Ah sì, è vero, nelle zampine della lontra. No, la tasca della lontra, che cosa che nessuno sapeva. Sì, i sassi della lontra. I sassi che metteva nella tasca, quindi è una cultura enciclopedica. Diciamo. Posso sbagliarmi 30 chilometri, ma quello è nozionismo, diciamo, la cosa importante è sapere l'altro. C'è da dire che ogni giorno, voi non sapete cosa fa, alle 7 si sveglia, va a leggere 3 righe su un'enciclopedia, certo. E ogni giorno ci spaccia questa cultura, così, questa saggezza popolare che ha imparato in realtà mezz'ora fa. Tra l'altro, giustamente, sfida Lucchetti, fa notare che era la lontra americana, non erano tutte le lontre, ma è una particolare lontra, la lontra marina, credo. Quindi anche lì non è per dire, ma non hai letto benissimo alle 7 del mattino con gli occhi stropicciati di sonno. Ma non è che Miriam Lucchetti per un po' potrebbe dedicarsi ad altri programmi, tipo 24 mattina, tutti convocati, cara Miriam. Potresti andare a fare tutti convocati alle ore 14, per esempio, invece di accanirti. C'è della grande tensione qui in redazione. Va bene, anzi, se siamo distanti, c'è della grande tensione. Ti informa però che domani, per tua gioia, sarà su altri programmi, sarà dedicata ad altri programmi. Ottimo. Va bene. Allora, dai ragazzi, nella seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan tratteremo tanti altri temi. Ce la facciamo a sentire Alfonso da Salerno prima del giornale radio? No, allora riprendiamo da Alfonso da Salerno. No, è stato come il signor no, Ludovico Peregrini si è incarnato qui in Peter l'Alpino e mi ha detto no, non ce la facciamo, dobbiamo andare al giornale radio. Ripartiremo da Alfonso da Salerno e tanti altri temi, state con noi nella seconda ora. Uno, nessuno, 100 Milan. Manera, io mi ricordo quel LP lì di Cocchi e Renato, c'era dentro quella canzone lì, a me piace il mare, c'era la gallina, c'erano la vita forse, questo non ricordo bene, comunque mi ricordo un LP, un long plane, color nocciola chiaro, con tutte queste canzoni di Cocchi e Renato, bellissimo. Milan, ma come fai a ipotizzare che fra 2 mesi finisce tutto? Ma ti rendi conto di cosa stai dicendo? Oh Milan, ma ti immagini quest'estate i litigi tra famiglie, tra genitori per l'uso dello scivolo o le distanze di sicurezza? Ci vorrà la pubblica sicurezza per sedare tutte le risse che scoppieranno sulle spiagge. Oh, che bellino. Scusate, ma perché c'è qualcuno che è rimasto ancora delle ferie? Io sono andato sotto di 15 giorni circa. Io devo scaricare 7 settimane di ferie, faccia conto, caro ascoltatore. Perché... Che succede? No, che mi succede? Sto preparando un po', sto facendo riscaldare un po' di caffè, non so se è quello. Chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto, sì, ma... Dove vado se parto? Sempre a me. Ti informo, caro Manera, che siccome c'è un piccolo di ritardo, è stupendo cantare in controfase. In controfase. Vabbè, se la radio ha questi problemi, non è colpa mia. Io, Io mi attengo alle mie capacità canore, diciamo così. Dico sì, non è che ho ipotizzato, ho detto se mettiamo il caso che tra 2 o 3 mesi finisce tutto perché si trova un vaccino. Mancava la parte, l'ascoltatore ha omesso la parte fondamentale. Perché quando ci sarà un vaccino finirà. Ma io mi atterrei anche a quello che sottovoce ha detto il professor Remuzzi, cioè che in questo momento sottovoce ha detto che in questo momento ci sono molti meno casi e sono anche molto meno gravi rispetto magari a un mese fa, quindi possiamo anche ben sperare in questo senso, magari ci si ammalerà lo stesso ma in modo meno significativo. Testuale ha detto: ora la malattia non è grave e ci sono sempre meno malati, e comunque non è grave, cioè come dire, come ci sono milioni purtroppo di malattie, magari anche più gravi. Comunque c'è Alfonso da Salerno. Alfonso, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo che fare una breve riflessione sul discorso delle distanze degli ombrelloni sulle spiagge. Sì. Mi sembra che si faccia una critica a chi ha deciso una cosa del genere, pensando che le persone staranno a 4,5 metri l'uno dall'altra. Sono gli ombrelloni che sono a 4,5 metri l'uno dagli altri. Sì, naturalmente certo. Intorno agli ombrelloni ci saranno delle poltroncine, ci saranno dei lettini, per cui le distanze tra un bagnante e l'altro si ridurranno al fatidico metro, metro e mezzo che è previsto in questo caso da coloro che secondo me ne capiscono un poco più di noi. Quindi chiederei di chiarire questa cosa, come per quanto riguarda i ristoranti e i bar. I 4 metri quadrati che sono previsti per ogni tavolino, andrà a finire che io sarò di spalle attaccato alla sedia di quello che sta a fianco a me o dietro di me, perché i 4 metri quadrati sono un 2x2. Se ne fa un metro il tavolino, un altro mezzo metro, 80 centimetri la sedia da una parte e dall'altra. Quindi queste considerazioni. Allora, lei intanto sa la geometria, Alfonso da Salerno, che è già un primo, guardi che io ho messo su Facebook l'ultima, le distanze di 4 metri quadrati, ieri un giornale aveva messo il lato di 4 metri quadrati, ha messo un quadrato di 4x4 metri, che sono 16 metri quadrati, cioè una roba pazzesca, cioè. Qualcuno ha detto l'hanno fatta apposta per farci ridere, perché il livello di ignoranza basica, crassa, sulla geometria da quinta elementare è spaventoso, è spaventoso. Sono pienamente però lei d'accordo con lei. No, lei giustamente dice se mettiamo un'opera di insegnamento a coloro che, come dice lei, non conoscono la geometria, che le distanze poi alla fine sono sempre quelle di un metro e mezzo tra una persona però, e l'altra. Allora, mi scusi però Alfonso, se ci sono 5 metri tra le linee di ombrelloni, questo dice linea, io vado in spiaggia, io fino all'anno scorso non vedevo 5 metri tra una linea e l'altra, poi è vero che tra sdraio, tavolino eccetera ci si avvicina di più, ma 5 metri tra una linea e l'altra e 4 metri e mezzo tra un ombrellone e l'altro l'anno scorso. Chiesto perché i 4 metri e mezzo tra l'ombrellone e poi i 5 metri in verticale, perché i 5 metri prevedono che il lettino ci si allunghi ancora di più, perché il lettino sarà 2 metri, quindi loro hanno calcolato, secondo la mia idea, può darsi pure che io sbagli, i 5 metri li hanno aumentati di un mezzo metro perché il lettino sarà più lungo della lei dice alla fine che... non saremo poi così distanti, ma si potrà ridurre, ecco, se sono un poco, vogliono venire incontro a quelle che sono le esigenze dei balneatori, ridurre di un mezzo metro, ma non penso che si possa fare di più. Però i balneari hanno detto, per esempio in Liguria, che 3 su 4 con queste distanze di sicurezza non potrebbero riaprire per la ristrettezza della spiaggia. Io faccio il commerciante, anche se in pensione. Li avranno fatti bene i calcoli. No? Esatto, io faccio il commerciante, ma bisogna rendersi conto purtroppo che è un momento tragico per questo paese, quindi purtroppo ognuno di noi dovrà convincersi che almeno quest'anno dovremo tutti quanti ridurre i nostri introiti, valutare se vale la pena. E purtroppo non dipende da chi ci governa, e non voglio difendere nessuno in questo momento perché non mi interessa. Ma dipende dal virus. No, ma questo l'ho detto anch'io ieri quando sono andato a prendere la pizza, ho detto ai miei amici pizzaioli: ragazzi, però il virus nessuno l'ha voluto, è arrivato, cioè non è che si sono svegliati e hanno detto ci vogliono ste regole perché è una fisima, ma purtroppo perché c'è questo. Grazie Alfonso. Certo, vedremo anche effettivamente un bambino a testa sullo scivolo, è terribile. Basta tuo figlio ha giocato abbastanza, adesso tocca al mio. Me le vedo già le risse, tu le vedi, sì. Leonardo, le risse. Ma immagino che alla fine ci si dovrà comportare secondo buon senso e questo crea probabilmente, ecco, delle difficoltà. Siamo alla frutta. No, magari no, perché alla fine noi anche qui in questa trasmissione abbiamo detto che gli italiani si sono comportati tutto sommato bene fino ad ora e magari andrà avanti così anche per l'estate. Sì. Nella grande maggioranza sarà così. Bravo. Sono ottimista e positivo stamattina. Incredibile. Fatti un caffè che ti passa subito. Davide da Torino, buongiorno. Grazie, arrivederci. È finito. Davide da Torino, buongiorno. Era Alfonso da Salerno. Vai, Davide. Ciao e buongiorno, ripeto. Dunque, io mi riallaccerei al discorso dell'operatore dello stabilimento balneare. Mi dispiace per lui, per la categoria, per tutte le categorie in questo momento a rischio economico. Ma come dicevate 5 minuti fa, purtroppo questa pandemia nessuna l'ha chiesta ed è arrivata. Ed è la seconda emergenza, diciamo, più grossa dopo la seconda guerra mondiale che l'Italia e il mondo sta affrontando. Per cui sì, però Davide, perché in Svizzera riaprono le scuole? La gravità c'è anche in Svizzera, la gravità c'è anche negli altri paesi, ma negli altri paesi si fa qualcosa in più. Allora, si fa qualcosa in più. Ho paura che noi siamo stati congelati dal terrore. Ecco, questa è la mia sensazione. Ma io credo invece che l'Italia da questo punto di vista sia penalizzata per il semplice fatto che noi le regole non sappiamo cosa siano. Benché in questo periodo ci siamo comportati molto bene, va bene, ma le regole noi non sappiamo cosa siano. Dal sud al nord, l'indicazione generale. E comunque sia, il problema degli italiani e del mondo in questo momento non è andare in vacanza e stabilire quanta distanza abbiamo dal nostro vicino dell'ombrellone, ma dobbiamo ripartire dal fare e non da polemizzare, perché qui si tratta di l'italiano che dice non abbiamo soldi però vogliamo andare in vacanza, ma di cosa parliamo? Guardi, l'OMS poco fa ha detto guardate che la salute mentale è a rischio. Insomma, è tutto importante, cioè, poi ognuno dalla propria prospettiva pensa che sia importante. Chi non ha 500 euro da portare a casa alla fine del mese pensa che sia importante avere da mangiare, chi invece ha un po' di soldi da parte pensa che sia importante anche andare in vacanza e prendersi una pausa. Non è mica un criminale uno che se lo può permettere e pensa così, e quindi non lo so, per Manera è importante giustamente riprendere gli spettacoli. Guarda che Leonardo, c'è Rosario da Firenze che credo voglia intervenire sul mondo dello spettacolo. Rosario, sentiamo. Buongiorno Rosario. Buongiorno. Prego. Buongiorno, mi sentite? Benissimo. Sì. Ecco, io parlo dell'ambiente dello spettacolo. Leonardo, mi meraviglio di te perché tu sei nel nostro ambiente e noi siamo distrutti. Ce lo dice giustamente tutti i giorni. Sì, però andiamo nelle banche e dice sì, noi questo fido non lo possiamo dare perché voi non vi riprendete, perché voi siete l'ultimo a riprendere, perché noi lavoriamo dove c'è la gente, noi lavoriamo dove c'è gli eventi, facciamo gli eventi. Leonardo lo sa perché non dica. Certo, ma infatti ne abbiamo parlato tante volte, anche ieri abbiamo lanciato questa iniziativa. Devo dire, da questo punto di vista io lo critico sempre Leonardo bonariamente, ma su questo urla questo grido di dolore ogni giorno. Noi siamo sordi, non si sente. In televisione parlo metalmeccanici, questo è vero, per l'amor di Dio. Ma dietro il nostro settore quanta gente c'è? Non siete politicamente forti. Non siete politicamente forti, questa è la verità. Questo è un problema annoso che riguarda lo spettacolo, che non ha mai avuto una rappresentanza di categoria e molti siamo cani sciolti e quindi non abbiamo modo nemmeno di essere rappresentati in modo significativo a livello politico. No, l'hai detto tu Leonardo, questo forse in questo caso è una pecca in questo momento, cioè molti artisti fanno fatica a fare squadra, no? A mettersi insieme, pensano alla propria arte. no? Come una anche, rappresentazione. C'è anche un problema di normativa, nel senso che noi siamo delle figure ibride tra dipendenti e liberi professionisti, mentre l'attore di teatro sostanzialmente è un dipendente dei teatri, delle compagnie che lo assumono, chi invece fa, diciamo, lo one man show, lavora da solo, è una figura ibrida, quindi non è né dipendente né libero professionista, e quindi diventa difficile anche essere rappresentato in questo no, senso. No, ma comunque noi tutti i giorni, ma Rosario fa bene a ridirlo, adesso dobbiamo andare al traffico, ma tutti i giorni, diciamo, sul mondo dello spettacolo, nel mondo dello spettacolo, per il mondo dello spettacolo ci sono pochissime parole, pochissimi fatti, questo è il dato concreto. Andiamo un attimo al traffico, perché poi ci sarà con noi il nostro amico critico d'arte a parlare di una notizia che parte dalla Francia, che è abbastanza incredibile. Qualcuno ha detto: dovremmo vendere la Gioconda, dovremmo vendere e fare cassa con la Gioconda. Tra un attimo. Uno, nessuno, 100 Milan. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. E è questo che avete capito di Italia Viva e delle sue polemiche, non avete capito proprio un accidente. Se Italia Viva non avesse smosso gli argomenti, non si sarebbe fatto niente. Non riuscite proprio a capire, l'importante è sputare contro Renzi. Mamma mia, che delusione. Ciao Mila, ascolta, ci sono tanti che ti ascoltano dal Libano, da Beirut, ex studenti che hanno studiato in Italia. Fai un saluto almeno anche a loro, Mohamed. Agli amici di... E gli amici di Beirut che ci ascoltano da Beirut, grande abbraccio a Beirut, città che mi piacerebbe visitare. Non so, Leonardo, tu sei mai stato a Beirut? Mandiamo un grande abbraccio a tutti gli amici di Beirut. Adesso appena finirà il lockdown andrò a Beirut, sì. Appena mi potrò muovere dalla Lombardia, il primo viaggio sarà a Beirut. Non ho capito, neanche una cosa, non abbiamo citato Renzi in un'ora e mezza di trasmissione, forse c'era la Bellanova. No, l'ho detto io, ne ho accennato io nel mio pezzo, dicevo che ah, è vero. Avevo detto che se non ci fosse stato il virus avremmo avuto le polemiche all'ordine del giorno tra Italia Viva e il governo, che quelle hanno continuato anche a esserci dopo, ma era una cosa buonaria. Allora, ma visto che servono i danè, si direbbe a Milano, i soldi, ma perché non ci vendiamo la Gioconda? Carlo Vanoni, ciao, critico d'arte. Ciao Carlo. Ma perché non ce la vendiamo? È partita come una boutade, ma è un dibattito in Francia. Noi guarda, abbiamo tante di quelle opere, adesso ci devi fare una stima di quanti soldi potremmo raccattare con tutte le opere che abbiamo in Italia, no? Ma però ti posso dire una cosa. Io sarei anche contento se togliessero la Gioconda per un periodo, ma non vendendola, prestandola, diciamo per 30-40 anni. Almeno tutti quelli che vanno al Louvre vedono anche il resto, perché dubito che tutti gli altri che sono andati al Louvre abbiano visto il capolavoro vero del Rinascimento, che è il concerto campestre di Tiziano. E sai dov'è? Dietro la Gioconda. Non sai che la Gioconda è su un pannello centrale, no? Messa lì protetta, e non la vedi perché c'è tutta la gente intorno, no? Poi ti avvicini e lei ti sorride. Dietro questo pannello c'è il concerto campestre. L'ultima volta che sono stato al Louvre ero io e due giapponesi a vederlo, tutti gli altri davanti alla Gioconda. Ma allora, io a Natale ero a Madrid, ho detto andiamo al Museo Reina Sofia, dov'è Guernica? Giustamente il principio è uguale, no? Di fronte alla Gioconda c'è Le nozze di Cana di Paolo Veronese, no? Che è 9 metri per 6, anzi più grandi. E tu dici: ma l'hai visto Le nozze di Cana? No, dov'era? È di fronte alla Gioconda, 6 metri per 9, non puoi non vederlo. È esattamente quello che faccio io. Io quando vado nei musei vado a vedere solo, chiedo qual è il quadro più importante, vado a vedere quello, poi mi disinteresso del resto, sono lo spettatore. Il tema in realtà è, cioè, nasconde anche qualcosa di profondamente serio, e cioè l'arte si può valorizzare così in un momento di crisi economica, cioè arrivare a pensare di fare cassa con questi capolavori? Ma guarda, questo signore qui, ho letto l'intervista lui dice vendiamo il gioiello di famiglia, no? Perché quando sono questi momenti di crisi il riferimento che si fa parlando dell'arte è sempre il gioiello di famiglia. Io ti dico la verità, non ci sarebbe niente di male per vendere un gioiello di famiglia, cioè tua madre ti lascia un gioiello, tu hai bisogno, lo vendi, è un gesto che lei fa nei tuoi confronti, è come se ti prestassi i soldi. Il problema è che l'arte non è un gioiello di famiglia, ma è un organo vitale, è ben diverso, e tu non vendi un organo vitale, sennò vuol dire che sei messo veramente male. Allora, se noi cambiamo la prospettiva e cominciamo a guardare l'arte come un organo vitale, come fosse un organismo, no? Come se la società, un paese, una collettività fossero un organismo, allora c'è il cuore, c'è i polmoni, i reni, c'è l'arte che è un organo vitale e non puoi venderlo. Io la penso in questo modo. Questa è una bella immagine, ma immagino che sia un po' un'utopia, insomma, questa visione dell'arte. Almeno a breve termine. Allora vuol dire che qualche altro organo ha fallito a questo punto, no? Se viene a chiedere qualcosa a me. Cioè, siamo tutti organi vitali, l'economia, la religione, l'arte, eccetera. Però sono organi vitali, non andrebbero toccati mai, cioè, come se tu vendessi un rene per sopravvivere. Cioè, vuol dire che è successo, c'è qualcosa che non va, ecco. Sì, io credo, Carlo, che coloro che fanno questo tipo di ragionamenti partono dal presupposto che dicono ma tanto l'arte, appunto, come dici tu, altro che organo vitale, viene trattata come uno degli aspetti secondari, se non terziari o quaternari della vita, e vengono lasciati lì, allora tanto vale, scusami su questa espressione, piuttosto che fargli fare la muffa a questa paccottiglia, vendiamola, no? Se venisse valorizzata non ci sarebbe forse questo tipo di dibattito. Certo, però io quando parlo d'arte non intendo come organo vitale, non intendo solamente l'arte visiva, cioè la pittura, ma anche la danza, la poesia, la letteratura, la musica, pensa quanti musicisti, no? Quindi l'organo vitale è inteso tutto in questo senso. Tu pensa, nel 1980, lo sai benissimo, ci fu il terremoto dell'Irpinia, no? Ecco, allora un grande personaggio, un grande gallerista, si chiamava Lucio Amelio, lui per attirare l'attenzione, non per vendere, ma solamente per attirare l'attenzione del mondo, chiamò i migliori artisti del mondo e gli fece fare un'opera. Oggi la collezione si chiama Terremotus, si trova alla Reggia di Caserta. Ecco, lì in quel periodo, a parte i soldi, serviva a attirare l'attenzione. Siamo nel 1980, non c'era internet, non c'erano le televisioni che ci sono oggi. Oggi c'è una sovraesposizione del problema, quindi di certo non devi attirare l'attenzione, ma devi cercare i soldi. Allora piuttosto chiediamo a tutti gli artisti francesi, che ne hanno anche di bravi, di concepire un'opera per questa emergenza, di venderla, ci sarà sempre qualche miliardario che la comprerà. Piuttosto che vendere la Mona Lisa, che poi chi se la compra? Ecco, poi la valutazione, questo che ha lanciato la provocazione ha detto vale 50 miliardi, perché non 30 o perché non 60? Ha fatto riferimento a Salvatore Mundi, ha detto se quello è stato pagato 450 milioni. E non è probabilmente neanche sicuro che sia, anzi forse non è proprio di Leonardo, sai che c'è tutta la diatriba, dice allora la Gioconda dovrebbe avere 50. Vedi, perché non è più la qualità ma è la quantità, no? Cioè, non è più l'epoca della qualità ma della quantità. Allora, quantificare anche la Gioconda, che è inquantificabile in quanto capolavoro, no? Come se dicessero voglio strappare il Giudizio Universale di Michelangelo, a quanto me lo metti? Cioè, ma non puoi fare ragionamento del genere, no? Al metro quadrato, cioè non. Quindi vabbè, lui ci ha provato e sicuramente ha attirato l'attenzione sul problema, no? Perché la Gioconda poi serve anche a questo. Infatti quando fu rubata, Berenson, che era il più grande storico dell'arte che abbiamo avuto in Italia nel Novecento, dice mamma mia, fosse vero veramente che l'hanno tolta, no? Perché sono quei fatti che non è male, no? Se fosse vero. Dove finirebbe negli Emirati Arabi probabilmente, qualche sceicco. Chi è che ha tutti quei soldi? Dovrebbero prestarla, un grande miliardario se la tiene in casa sua, fa le cene con gli amici, la fa vedere e così noi che andiamo al Louvre, sai che il tempo di permanenza davanti a un'opera è di 15 secondi, se ci pensi niente, no? Forse niente. Perché tutti corrono a vedere la Gioconda, quindi non vorrebbe recuperare il tempo. Quindi magari uno comincerebbe a vedere il concerto campestre, ma poi scusami, al Louvre c'è la Sant'Anna, c'è la Vergine delle Rocce, sono altri, il San Giovanni, sono altri tre capolavori di. Forse quattro addirittura, me ne sfuggiva, sì, c'è neanche un altro, quindi non è l'unico lavoro di Leonardo, no? Però sì, gli altri non li vede tra nessuno. Però questa idea di prestarla è stupendo, rilanceremo anche le assicurazioni, pensa che assicurazione uno deve fare per tenersi in casa la Gioconda, no? Quando si viene a sapere. Siamo 30 anni senza la Gioconda. Sì, stupendo. Senti Carlo, ma perché alla fine poi la Gioconda perché è diventata così importante, il simbolo in qualche modo dell'arte mondiale? Ma perché? Allora, intanto cominciamo a dire che è di Leonardo da Vinci, che non proprio di uno sconosciuto, no? Quindi è stata fatta lui. Poi il successo della Gioconda nasce nell'Ottocento, cioè la Gioconda è dipinta all'inizio del Cinquecento, ma il successo comincia ad arrivare nell'Ottocento quando alcuni personaggi, come Baudelaire, per esempio, come Gautier, come Walter Pater, il padre dell'estetismo, no? Cominciano a parlarne, no? Nella loro prosa. E addirittura c'è un'associazione con la femme fatale, si pensa, no? In quell'epoca. E quindi tutto questo viene amplificato poi con la nascita della fotografia, prima, e poi prima ancora delle incisioni. Quindi c'è una divulgazione di questa immagine che poi girerà il mondo dopo il furto nel 1911, viene rubata, sì, e va sulle prime pagine di tutti i giornali e fa il giro del mondo. Quindi è come se fosse la stampa, no? Aver portato in giro un'immagine. Tieni presente che all'epoca non c'era la televisione, non c'erano questi mezzi di comunicazione. Quindi lei era un argomento fortissimo, cioè Leonardo da Vinci viene rubata un'opera, la notizia fa il giro del mondo ed ecco che diventa un'opera. Certo. Poi era stata nella camera da letto di Napoleone. Quindi c'era tutta una storia che forse avremmo dovuto partire da quello, dal fatto, sì, che fu esposto nella camera da letto di Napoleone, poi quando aprì il Louvre la portarono al Louvre, e poi tutto quello che ho detto sulla letteratura ottocentesca che ne crea il mito. Sì, sì, tra l'altro rubata dall'italiano, non so, Perugia. Sì, Perugia. Vincenzo Perugia. Tra l'altro, in tutto questo, lo cito, caro Leonardo, il nostro Carlo Vanoni ha scritto anche un libro nel 2012, ha letto con Mona Lisa, giustamente, e in copertina indovina che cosa c'è, il dipinto della Gioconda. Che esce da un letto. Credo che sia... Sì. Il primo libro che scrisse Carlo, no? Poi ne hai fatti altri, l'ultimo, sì, corso Ferino, ma quello forse, sì, è stato il primo. Quello è stato il primo. Sì, poi un'altra cosa della Gioconda, poi nel Novecento, pensa anche Duchamp, per esempio, e altri artisti hanno continuato a insistere, perché è un mito, no? Capito? È il grande mito che nasce appunto nell'Ottocento e prosegue anche nel Novecento. Però ecco, interessante che Bernard Bergson e Roberto Longhi, cioè i due più autorevoli, più importanti personaggi, quelli che hanno fatto l'arte, la storia della critica d'arte, dell'arte del Novecento, fossero tutti e due contro la Gioconda di Leonardo. Anche Longhi la paragonò a una pagnottella pallida addirittura, no? Quindi è interessante, perché effettivamente, cioè, probabilmente per lo storico dell'arte sono anche altri capolavori, ma il mito non c'entra niente. È un po' come quando, non so, tu pensa un altro quadro famosissimo, La ragazza con l'orecchio di perla di Vermeer. È stato un quadro che è diventato, forse per il libro, sicuramente per il film che hanno fatto al cinema, l'hanno esposta a Bologna, sono andate 100.000 persone a vederla. Ecco, quindi sono queste cose che toccano un po' anche, come una volta c'era, non so se vi ricordate, il periodo di Giorgione, la tempesta di, sì, Giorgione. Ecco, sì, anche quello non è il capolavoro del Cinquecento, però è un quadro che tocca, che arriva, e quindi è successo, chiaro. Allora, ringraziamo, non vendiamo e neanche affittiamolo. Grazie a Carlo Vanoni, grazie Carlo, un grande abbraccio, ovviamente il nostro critico d'arte, che con noi ha fatto, con Leonardo, fa anche tante trasmissioni televisive, spettacoli, faceva, no, non lo dico con amarezza, insomma, ma torneremo a farle. Leonardo, che dici? Torneremo più forti di prima, ti piace questo? Speriamo. Ovvio. Mi sembrava giusto. Borsa amara. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma allora, Manera, se non siete rappresentanti da sindacati, da politici, cioè riunitevi, scendete in piazza e andate a manifestare per i vostri diritti, sveglia. Le vacanze le abbiamo già fatte, bisogna lavorare, le vacanze le abbiamo già fatte. Perché non sentite cosa ne pensa di questo periodo il gelataio Bellugi? Sarebbe interessante. Ciao. Allora, Leonardo, ricordi Gelati Bellugi. Posso dare questa informazione? Al comma 10 dell'articolo 89 del decreto rilancio, il governo ha previsto per i mesi di aprile e maggio, del passato aprile, insomma, una indennità di 600 euro per i lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro. Stai leggendo il Sole 24 ore, spero per te. No, è una mail che mi è arrivata da Valerio Federico, un mio amico. Da Valerio Federico, che è un mio amico. Che legge Sole 24 ore, a tua... Naturalmente, legge... Sì, sì. Dai, vai. Sentiamo Luigi da Roma, poi abbiamo un ospite. Luigi. Buongiorno, signor Lentofede, grazie della telefonata. Buongiorno. Vabbè, buongiorno. Prego. Allora, signor Lentofede, premesso... che ho fatto tutta la vita in galera per furto con destrezza, premesso che se lì non andava al Gran Giulio Cesare i nostri cugini ancora andavano in giro in ciabatte, premesso che la Gioconda est capitalum italiano, mi dia 30 volontari che vado, so io come fare per andare lì, come ha fatto il Perugia da solo. Ha fatto la galera, li troverà da lei i 30 volontari. Sì, ho fatto la galera per furto con destrezza tutta la vita. Cosa aveva rubato? La Gioconda va riportata in Italia, la riporto io, signor Lentofede. Sì, vai, perché se aspettiamo Lentofede, effettivamente. Cosa, perché cosa è andato in galera? 30 volontari. Cosa? Niente, cerca 30 volontari. Come dici? Cosa aveva rubato? Che cosa aveva rubato con destrezza? Ah, io con destrezza ho cominciato a rubare in Africa orientale a 5 anni e le lampade a carburo perché c'era la guerra, dice Albertone, a guerra e gli inglesi bombardavano, quindi bisognava rubare lampade a carburo per fare un minimo di luce. E poi da lì è cominciata tutta la storia e sono sempre finito in galera. Sempre finito in galera. Beh, era molto con destrezza, però se è sempre finito in galera vuol dire che alla fine non c'era tutta questa grande destrezza. Sempre per furto con destrezza. Con destrezza. Ma l'hanno sempre beccato, vabbè. Però quindi non era una destrezza così. Perfino una carrozza ferroviaria. Sì. Ho deviato la ferrovia, la carrozza è entrata nel mio giardino, l'ho fermata lì e poi ho rimesso la ferrovia dritta in ordine. Questa dobbiamo verificare, questa è una sfida, sfida Lucchetti, dobbiamo controllare questa cosa. Va bene, Luigi, la ringraziamo. Ma adesso, caro Leonardo, sai che ci occupiamo degli italiani che sono bloccati all'estero. Siamo in grado di collegarci via Skype con la Colombia, dove saluto Giovanni Cuocci. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, in realtà sono qua insieme a un altro genitore di coppia in adozione in Colombia. Ah, stupendo. Allora siete insieme. Allora, la questione è questa: siete lì per completare, siete andati per terminare le pratiche di adozione di credo un bambino, forse un bambino, entrambi, due famiglie, però non riuscite a rientrare, quindi non siete lì in vacanza, non siete lì per divertimento, ma appunto spiegateci perché non riuscite a rientrare. Sì, in realtà io sono partito dall'Italia l'8 marzo insieme a mia figlia e mia moglie per venire ad adottare un bambino. Con molta lentezza le pratiche sono state concluse perché molta lentezza normalmente ci si mette un mese e qua siamo oltre i 60 giorni di permanenza in Colombia. Comunque abbiamo finito tutte le pratiche e invece purtroppo non si riescono a trovare i voli per rientrare in Italia. Siamo in contatto con l'ambasciata italiana quotidianamente, però purtroppo vengono proposti voli che poi magari sono già pieni, non si riesce a salire e non ci sono voli organizzati dall'Italia per poter tornare in Italia, appunto. Questo è il grande tema di cui stiamo dibattendo, cioè perché l'Italia non riesca a far fruttare questi fondi della protezione civile europea messi a disposizione. Altri stati pare siano molto più attivi in questo, e invece noi abbiamo vari italiani sparsi per il mondo che non riescono a rientrare. E voi, ma voi dovreste pagarvi il volo, peraltro che poi viene cancellato? Certo che dovremmo pagarci il volo. L'ambasciata ci propone solo voli, perché adesso i voli diciamo sono contingentati da tutte le ambasciate. Ogni ambasciata ha i propri voli e ovviamente fa salire prima i cittadini del proprio stato, nel senso che ci sono le compagnie di bandiera. Un esempio che mi viene è KLM, per quanto riguarda l'ambasciata olandese, organizza un volo, fa salire soprattutto olandesi, e il prezzo di questo volo si attesta intorno alle 600 euro, che è il doppio di quello che costerebbe un volo normalmente, ma che comunque per un cittadino olandese secondo me può anche andare bene. Una volta arrivato ad Amsterdam è già arrivato a casa. Se sei italiano, sì, e devi salire su quel volo, paghi quei 600 euro, poi magari ne spendi altri 600 euro per riuscire ad arrivare in Italia e non sai se ci arrivi. E l'ultima famiglia che è partita il 4 maggio ha pagato 1500 euro a persona per arrivare in Italia, e ci sono voli di altre, appunto, compagnie che girano. Adesso ce n'è uno nei prossimi giorni di una compagnia che si chiama Garuda, un altro di Avianca, un altro di Air France e un altro ancora di Turkish Airlines. Questi voli ci erano stati proposti tutti quanti, a tutte le famiglie, perché qui ci sono 5 famiglie che hanno concluso il percorso e una sesta che sta aspettando di concludere tutto il percorso. E queste 5 famiglie avevano pensato di poter salire su questi voli. Il giorno successivo ci è stato detto che questi voli purtroppo erano pieni, non si sapeva se qualcuno riusciva a salire o meno, che dovevano vedere forse una famiglia sarebbe riuscita a salire su uno di questi 4 voli, eccetera. Poi il giorno dopo ancora ci hanno proposto un altro volo di KLM, che sarebbe partito il 23 di maggio, però anche qua sì, è un'ottima proposta, ma non sappiamo poi se riusciremo a salire, non abbiamo alcuna garanzia. Sì, ma nel frattempo uno cosa fa? Compra il volo e paga e poi perdi soldi? No, io vorrei capire anche questo. Una volta che hai pagato il volo hai la sicurezza che sali, e certo, però chiamano direttamente per prenotare, pagare il volo, ti chiamano qualche giorno prima, e quindi tu stai, noi adesso abbiamo preso un appartamento in affitto e siamo qua col telefono acceso e speriamo che ci chiamino, anche se io personalmente... Dove siete in Colombia precisamente? Tutte le famiglie sono a Bogotà adesso. Io personalmente preferirei ci fosse un volo da parte dell'Italia, mi sentirei molto più tranquillo che se lo Stato italiano organizzasse un volo, chiamiamolo umanitario, un volo attraverso i fondi della protezione civile europea, che credo ci siano tutte le condizioni per poterlo fare. È ovvio che sì, l'Italia deve anticipare i costi, poi la comunità europea glieli Ma come fanno anche gli altri stati? Tra l'altro Giovanni a fianco, appunto, lì è che ora è? Prime ore del mattino? Sono le 3:30. Com'è la situazione coronavirus a Bogotà? Ci sono, credo, 12.000-13.000 casi. No, in tutta la Colombia, In tutta la Colombia. Però insomma è una situazione, cioè si può circolare, si può, oppure ci sono delle misure di sicurezza? No, è come in Italia. C'è il lockdown come in Italia. E quindi è una situazione, non so, voi chiedete, non so, e qua non siete gli unici, abbiamo scoperto che uno degli ospiti che abbiamo avuto riuscirà a rientrare, perché poi insomma ognuno cerca di arrangiarsi, certo voi siete lì per ultimare, appunto, siete arrivati lì per ultimare la pratica d'adozione, quindi non eravate neanche a fare una vacanza, non che fare una vacanza sia una colpa, ma voglio dire, eravate lì per portare avanti un progetto di vita. Che dire, Giovanni, ci risentiamo anche con il tuo amico, insomma la famiglia che se volete chiedere qualcosa. Ci vuoi dire qualcosa? Non sappiamo neanche il nome, ti devi presentare a questo punto. Sì, certo, io mi chiamo Gerardo sì? E qui condivido la stessa storia di Giovanni, credo che me l'abbia raccontata ampiamente, insomma. Però adesso tutte le famiglie che siamo qui, che siamo rimasti in 5, siamo accomunati dal fatto di necessitiamo di trovare un volo, perché la permanenza qui, che è stata doppia rispetto al solito, ha portato uno stress adesso, non indifferente. Chiaro, ma è chiaro, posso immaginare anche un esborso economico, perché avete anche dovuto pagare l'affitto, no? Certo, abbiamo dovuto pagare l'affitto, l'alloggio e quant'altro. Già un'adozione costa tantissimo in partenza prima di venire qui, però adesso quello che a noi preme di più è il rapporto con i nostri figli, perché i primi giorni con cui si sta insieme con i figli sono quelli in cui si crea il legame, e creare un legame in una situazione particolare dove i bambini non possono uscire e vedono i genitori stressati da questa situazione di estrema incertezza, che fino a 2 o 3 giorni prima non si sa se si riesce a salire su un volo, sì, o meno, non è proprio il massimo per iniziare un progetto di vita insieme. No, mi rendo conto che davvero è complicatissimo. Noi vi ringraziamo, ma teniamoci in contatto, tanto i contatti della redazione li avete. Giovanni, Gerardo, ci sentiamo quando, e spero la situazione sarà un po' sbloccata. Noi, ripeto, quello che possiamo dire è dare voce a tutte queste persone sparse che ci stanno contattando, ci mandano mail a 100milan@radio24.it. Se sapete di notizie simili, ditecele. Allora, caro Leonardo, abbiamo abolito il traffico. L'abbiamo abolito. Colpo di Stato. Non c'è traffico oggi. No, mi è antipatico oggi il traffico. Non quelli colleghi che fanno il traffico. Non voglio il traffico. E quindi non lo so, no, c'è un piccolo problema tecnico e quindi lo recupereremo più avanti, però mi piaceva dire così, fare un po' lo spaccone, colui che può decidere qualcosa, non posso decidere niente, neanche cosa scegliere. Oracle.